E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa, le coordinate. Ci potete ovviamente ascoltare, ma potete anche interagire con noi attraverso Twitter e Federico Taddia. Se volete scrivere messaggi, oppure l'hashtag è l'Altra Europa. Ci trovate su Facebook, facebook.com/l'Altra Europa, pagine virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Lo sapete, cerchiamo altre sfumature, cerchiamo di respirare un po' la cultura europea, cerchiamo anche di approfondire quello che è accaduto nella settimana. Andiamo a toccare ed approfondire alcuni spunti, alcune sollecitazioni che magari arrivano proprio da Bruxelles o comunque dal cuore della nostra Unione. Tutto questo lo facciamo viaggiando attraverso i 27 paesi, e oggi si parte dall'Ungheria. Mert az íze mindent megér, minden része arról beszél, hogy jó tegyél, s így jól legyél, jó tegyél, s így jól legyél. Quello che avete ascoltato, questo jingle, questo spot che abbiamo utilizzato per introdurre la puntata di oggi, è una pubblicità di azienda di insaccati ungheresi, dove lo slogan dice "è un buon cibo". E partiamo proprio dall'Ungheria per parlare di quella che è una legge che è stata di fatto utilizzata in tante nazioni, anche in Italia è stato fatto qualcosa del genere, per tassare i cibi grassi, i cibi non sani, i cibi troppo ricchi di zuccheri, quei cibi insomma che fanno male alla salute, e si cerca attraverso la tassazione di limitarne l'uso. Beh, quello che sta succedendo, quello che è accaduto in Ungheria è particolare. L'Ungheria è una delle nazioni al mondo col più alto tasso di obesità. Grazie a questa legge che è in vigore da un anno abbondante, è stata raccolta una cifra esorbitante per le tasse statali. Si parla di una sessantina di milioni di euro. E tutto ciò però ha portato a cosa? Ha portato al fatto che gli obesi sono ancora obesi, non c'è stato nessun miglioramento sia per quello che riguarda il peso medio sia per quello che riguarda l'aspettativa di vita, che in Ungheria relativamente al resto d'Europa è molto bassa. Per capire quello che è un po' l'approccio anche della società civile, della popolazione rispetto a questa legge, volevamo un punto di vista particolare e l'abbiamo trovato. Lui si chiama Gianfranco Romagnoli ed è proprio un ristoratore italiano a Budapest, è proprietario del ristorante L'Aranceto. Ciao Gianfranco, benvenuto all'Altra Europa. Sì, salve, buongiorno. Tu appartieni alla categoria degli obesi in quanto ristoratore? No, non credo. No, diciamo che non faccio parte di questa categoria. Però il tuo è un osservatorio privilegiato, perché insomma, avendo un ristorante, vedi come e quello che mangiano gli ungheresi, al di là della qualità del tuo cibo, che sicuramente è ottimo. È veramente una popolazione che ha un rapporto disturbato o difficile con il mangiare? Diciamo che la popolazione... Pronto? Sì, pronto, siamo qua. Sì, no, diciamo che la popolazione ungherese in ogni caso ha delle problematiche rispetto al cibo, no? Mm-hmm. Infatti si evince che il tasso di malattie cardiovascolari è molto alto in Ungheria. Chiaramente il mio ristorante, essendo un ristorante di cucina italiana, non ha di queste problematiche, perché utilizziamo e diamo da mangiare all'italiana, quindi siamo attenti a quello che diamo da mangiare. Certo, ma mangiano male? Cioè, è sbagliata la dieta ungherese o c'è proprio un approccio compulsivo al cibo, agli snack, alle bibite frizzanti? Cioè, c'è proprio una ricerca di queste alimentazioni? No, diciamo che in primis l'alimentazione ungherese è stata da sempre, diciamo, con un alto un alto tasso calorico, usano molto grasso, molti burro, margherine, eccetera, eccetera, eccetera. Mm. E poi con l'avvento, diciamo, dell'America, diciamo, di tutte queste merendine, di tutti i McDonald's, di tutte queste cose grasse energetiche, diciamo che gli ungheresi piace molto, e quindi automaticamente ne fanno un uso, più che un uso, un abuso. Certo. Allora, questa legge è entrata in vigore nel giugno 2011, esattamente sono 77, per la precisione, settembre 2011. 77,8 milioni di euro è la cifra che è entrata appunto nelle tasche del governo grazie a questa legge. Però di fatto tutto ciò non è stato affiancato da una campagna di rieducazione alimentare. La popolazione come ha reagito a questa legge? Bah, sicuramente la popolazione, a parte il fatto nel momento in cui è stata inserita la legge, hanno preso atto, era disturbata da questo fatto, però hanno continuato sicuramente a comprare e a mangiare nello stesso modo prima della legge. Qui non è cambiato niente, insomma. No, assolutamente niente. sono aumentati solamente i prezzi, questo sì. Quindi sono aumentati i prezzi, sono aumentate ovviamente le tasse. È chiaro comunque che la legge colpisce prevalentemente tutta quella fascia, diciamo, dei prodotti imbustati, tipo snack, sì. Tipo bevande energetiche, gelati con un certo tasso di zucchero all'interno, cioccolata con un alto tasso di zucchero, o anche bevande con una percentuale bassa di frutta, per esempio. Perfetto, quindi insomma, per quello che riguarda la tua attività invece è cambiato poco, nel senso Da noi non ha portato nessun danno, perché non usiamo questi prodotti, quindi automaticamente non ci sono state, diciamo, delle ripercussioni sui prezzi, ecco. Domanda secca, risposta secca, Gianfranco, sì. Come mai hai aperto un ristorante proprio a Budapest? Perché quando aprì un ristorante a Budapest era una città che aveva bisogno di un buon ristorante italiano. e allora ho approfittato dell'occasione. Contento della scelta fatta? Assolutamente sì, un bellissimo popolo, una bella nazione. Budapest è bellissima, quindi diciamo decisamente. Solo il clima è un po' più freddo, ma va bene. Vabbè. Grazie davvero, ciao e buon lavoro. La ringrazio, arrivederci. Ciao. Europost-it. Tasse ed evasione? La Commissione europea vuole la tua opinione. Avete idee su come far pagare tasse più eque e soprattutto come fare in modo che le paghino tutti? La Commissione europea ha appena lanciato due consultazioni pubbliche sulle misure che potrebbero migliorare la riscossione delle imposte e garantire un maggior rispetto degli obblighi fiscali in tutta l'Unione. La prima consultazione riguarda l'elaborazione di un codice europeo del contribuente che elenchi con chiarezza i diritti e gli obblighi dei contribuenti e delle amministrazioni fiscali. La seconda riguarda un numero di codice fiscale europeo che faciliterebbe l'identificazione dei contribuenti nell'Unione e il modo migliore per attivarlo. L'obiettivo delle consultazioni pubbliche è individuare esempi di buone pratiche eseguite nei vari Stati membri per quanto riguarda la raccolta di dati sull'identità dei contribuenti, la disciplina fiscale e la trasparenza, e renderli fruibili per tutti. Per saperne di più e partecipare, ec.europa.eu/taxation_customs e cercare la sezione Tax Consultations. Sono uomini e donne che hanno lottato contro il male, l'indifferenza e l'ostilità, contro le convenienze, il perbenismo, e per rispettare i diritti umani non hanno esitato ad andare controcorrente. Quello che state ascoltando, la musica che state ascoltando è un concerto per i giusti che si è tenuto a Varsavia, si è tenuto il 6 marzo, si è celebrata la prima giornata dei giusti per la memoria comune d'Europa, una ricorrenza che è stata istituita lo scorso anno, quest'anno per la prima volta si è celebrata e in questo weekend, proprio oggi e domani, tantissime altre iniziative dall'Italia a Varsavia, da Bruxelles a San Pietroburgo. Per capire il significato di questa giornata dei giusti abbiamo il piacere di ospitare una persona che si è battuta tantissimo per questa memoria comune e da una sua idea, dalla sua forza, dalla sua volontà anche si è arrivati ad avere questa giornata così importante. Diamo il benvenuto a Gabriele Nissim, giornalista, esperto di Europa orientale, saggista e presidente del Comitato per la Foresta dei Giusti. Buongiorno Gabriele, ben ritrovato all'Altra Europa. Buongiorno. Ciao. Nessuno meglio di te ci può spiegare il valore di questa giornata. Che cos'è la giornata dei giusti? Ecco, io credo che abbiamo fatto, diciamo, in Europa un piccolo miracolo, perché siamo riusciti a, diciamo, a creare un'unità europea intorno al tema dei giusti, al tema di coloro che si sono assunti una responsabilità nei confronti di tutti i genocidi e tutti i totalitarismi. Questa idea dei giusti è nata a Yad Vashem proprio intorno agli anni 60 da parte di Moshe Beschi, uno dei sopravvissuti della lista Schindler, il quale aveva avuto l'idea di ricordare tutti gli uomini che avevano aiutato gli ebrei durante l'Olocausto per rendere pubblica questa memoria del bene. E noi abbiamo voluto estendere questa intuizione di Moshe Beschi alla memoria di tutti i genocidi, cioè per rendere pubbliche tutte quelle figure che da Ruanda al genocidio armeno, al totalitarismo sovietico, alla Cambogia, alla pulizia etnica, durante i peggiori crimini dell'umanità si sono assunti una responsabilità verso l'altro uomo. C'è un elemento particolare nei giusti, che i giusti, che poi in realtà sono persone normali, comuni, non sono santi ed eroi, ma sono delle persone che quando si trovano di fronte al male non aspettano, non voltano la faccia dall'altra parte, ma dicono: cosa posso fare io? Cioè non si aspettano il cambiamento del mondo, ma dicono: cosa posso fare io nel mio piccolo per salvare il mondo. Ecco, noi abbiamo voluto dare questo messaggio di speranza all'Europa e lo abbiamo anche sottolineato a Milano con questo concerto di Gaetano Liguori, questa sua musica, perché in fondo l'idea del bene è un'idea di bello, è un'idea di un mondo esteticamente più giusto, quindi è un'idea anche di felicità, perché difendere il bene nell'umanità significa in tutto sommato vivere meglio e trovare la forza, come dire, di costruire un mondo migliore. Gabriele, tu sei stato a Bruxelles, o a Strasburgo, dove avete fatto la giornata? Abbiamo fatto a Bruxelles ecco. il 6 mattina. Esatto. E ecco, cosa si prova a arrivare nel cuore dell'Europa, dove solitamente è la politica, solitamente è l'economia, solitamente sono leggi concrete, leggi che toccano il portafoglio, leggi che toccano la nostra quotidianità. Invece arrivi lì e parli di giusti, parli di bello, parli di diritti. Che accoglienza hai e avete ricevuto? Ecco, prima di tutto bisogna dire che ci siamo arrivati attraverso una dura battaglia, perché noi come associazione Gary Wo non siamo, non abbiamo forze politiche dietro di noi, ma abbiamo fatto una battaglia di idee, no? Sì. E fra l'altro siamo andati, io personalmente, insieme ad altre persone, abbiamo bussato alla porta di tutti i deputati. Voi dovete pensare, appunto, più di 700 deputati, e noi siamo andati in ogni ufficio, da ogni segretaria, per trovare il modo di ricevere una firma in più, e ci siamo arrivati il 10 maggio, quando abbiamo ottenuto 388 firme, la maggioranza del Parlamento, ecco. E noi, come dire, abbiamo un po' sconvolto la situazione, perché, come dire, abbiamo chiamato l'Europa a fare, a ritrovare un'unità su un discorso morale, su un discorso morale che unifica le coscienze, no? Perché l'Europa non è soltanto divisa, diciamo, dalla situazione economica che c'è nei diversi paesi, dai problemi della moneta, dai problemi di politica estera, no? Cioè l'Europa è anche divisa sul piano delle memorie, sì. Perché in tutti i paesi ci sono memorie diverse, e mettere assieme memorie della Shoah, la memoria del totalitarismo, la memoria della pulizia etnica, non è stato facile, perché sembra quasi che una memoria deve essere superiore all'altra. Io ho sempre sottolineato, diciamo, quello che è la memoria fondamentale della Shoah, ma anche questa memoria, come dire, nei paesi dell'est, per esempio, fino all'89 non è stata mai ricordata, perché i comunisti negavano questa memoria. E d'altra parte ancora noi abbiamo molte difficoltà a riconoscere la memoria dei gulag, non ne sappiamo nulla, no? Non sappiamo nulla dei milioni di persone che sono finite a Colima nelle miniere e sono morti di freddo. Ecco, mettere insieme tutte queste memorie non è stato facile, perché c'è quasi una loro concorrenza. E devo dire che io personalmente sono stato molto contento di ricordare il 6 di marzo insieme al presidente israeliano Peres e al presidente presidente bulgaro, no? Uno dei fatti, una delle storie più, diciamo, più importanti, no? Dei giusti d'Europa, no? Perché proprio il 6, adesso a marzo, è l'anniversario del settantesimo anniversario del salvataggio degli ebrei bulgari, che furono salvati da Dmitri Peshev, di cui ho scrissi un libro che si chiamava appunto L'uomo che fermò Hitler. Ecco, l'Europa in questa giornata del 6 marzo si è trovata unita per ricordare la storia di questo personaggio, un vicepresidente di un Parlamento in Europa, l'unico durante il tempo del nazismo, che è riuscito a fermare lo sterminio degli ebrei. Pensate che questo uomo pochi due anni prima aveva appoggiato le leggi razziali, aveva esaltato Hitler, e poi a pochi giorni dalla deportazione fu l'uomo che fermò tutti i treni che partivano per Auschwitz. Ed è l'unico caso di un personaggio che era legato a un regime filo tedesco che cambiò idea e invece di diventare un carnefice divenne il salvatore di una nazione intera di ebrei. Quindi una storia straordinaria per tutta l'Europa. Ecco, è straordinaria ed emblematica appunto del valore dei giusti, come ci hai detto tu. Gabriele, grazie davvero per questa testimonianza. Ricordiamo il sito per chi volesse avere informazioni e per chi volesse seguire anche la vostra attività tutto il tempo dell'anno. Non c'è solo un giorno all'anno da dedicare ai giusti, che è www.garivo.net. Grazie davvero Gabriele, complimenti, complimenti per la passione, per il desiderio, per la voglia di memoria che però ha un estremo bisogno di attualità, ed è quello che state facendo voi. Ciao Gabriele, buon sabato, grazie. Arrivederci. Europost-it. Un servizio volontario europeo per giocare insieme. La cooperativa Alambicchi di Prato cerca volontari per alcuni progetti di servizio volontario europeo in Grecia, organizzati da Orpheus Youth Organization di Corinto. I progetti sono tutti legati al lavoro con i bambini. Si passerà la giornata con loro, nei loro laboratori e nei momenti di svago, imparando ad usare la creatività e a lavorare con bambini di altre culture e lingue. Per candidarsi bisogna inviare il proprio curriculum vitae, una lettera di motivazione alla cooperativa all'indirizzo giovani@alambicchi.org. Per saperne di più sui singoli progetti, andate sul sito dell'organizzazione di Corinto, orfeas.org. Every year, millions of women and girls in the EU and around the world are subjected to the brutal practice of female genital mutilation. And many more are at risk. Female genital mutilation is a very harmful practice. It violates human rights. It is both physically and psychologically extremely damaging. So on International Women's Day, join us in saying, zero tolerance to female genital mutilation. Zero tolleranza, tolleranza a zero, questa è ancora l'altra Europa, e lo sapete, siamo qui per parlare di Europa, ma per essere anche megafono, essere eco dei messaggi che l'Europa lancia, della cosa che stiamo facendo in questo momento. Lo facciamo con le parole del vicepresidente della Commissione Europea, Viviane Reding. E lei è la protagonista di un trailer, di uno spot, di un appello che potete trovare anche sulla nostra pagina in Facebook, facebook.com/l'altra Europa. Un appello intitolato tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili, una pratica degradante, una violazione dei diritti umani, un crimine di cui sono vittime milioni di donne e ragazzi nell'Unione Europea. Solo in Italia sono 35.000 le donne, tra le quali oltre 1.000 bambine che sono vittime di mutilazione genitale femminile. La Commissione Europea ha lanciato questa campagna durissima, fortissima, interattiva, quindi anche molto moderna, proprio per dire tolleranza zero, per capire il perché di questa campagna, ma soprattutto per capire in che modo si svolge e cosa si aspetta la Commissione anche dall'intervento, dalla creatività dei cittadini. Abbiamo con noi Lucrezia Titi della Direzione Generale Giustizia della Commissione Europea. Buongiorno Lucrezia, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno. Tolleranza zero, un titolo che dice già tutto. Questa campagna, lo ripeto, una campagna moderna, credo per certi aspetti anche molto innovativa, perché si vuole andare al di là della mera sensibilizzazione. È importante comunicare, è importante dire, ma quello che chiedete è qualcosa in più, vero? Questa campagna vuole ribadire appunto la tolleranza zero da parte dell'Unione Europea contro questo crimine che, come lei ha ben sottolineato, riguarda centinaia di migliaia di donne in Europa. Ed è una campagna che ha un risvolto più interattivo, come da voi sottolineato, e a cui la vicepresidente Viviane Reding e noi tutti invitiamo a partecipare simbolicamente con il gesto dello zero attraverso i social media, ma che comprende anche delle attività proprio rivolte agli addetti ai lavori e a coloro che operano quotidianamente contro questo tipo di violenza. Non a caso in questa campagna è stata lanciata una consultazione pubblica proprio per conoscere le necessità e quelle che sono le migliori soluzioni per affrontare questo problema, che è un problema con ampie sfaccettature che non può essere risolto in una maniera univoca. Quindi questa consultazione pubblica sarà disponibile online sui siti della Commissione Europea fino al 30 maggio, ma quello che è ancora più importante è che l'Unione Europea mette a disposizione dei fondi proprio per sensibilizzare e sviluppare progetti di comunicazione nell'ambito della violenza contro le donne in generale, ma anche proprio sul problema specifico delle mutilazioni genitali femminili, che ci terrei a ricordare sono pratiche che comprendono la rimozione totale o parziale degli organi genitali femminili esterni e altre pratiche di natura non medica che vengono esercitate su bambine e su giovani donne fino a circa l'età di 15 anni. Quindi si tratta sia di una violenza contro le donne, ma anche di un abuso sui bambini. Certo. Quindi una campagna di sensibilizzazione, come abbiamo detto, anche sui social network al quale si può partecipare in questi giorni, anche solo con una foto per dire sì, ci sono, vi sto appoggiando, stanziamento dei fondi, iniziative di sensibilizzazione e formazione, poi, ripeto, questa consultazione pubblica a cui si chiede ai cittadini di suggerire i modi migliori per combattere queste pratiche, ma non solo, si cercano anche idee proprio sul fare formazione, sul fare comunicazione, sul come parlare, perché già solo il parlarne nelle scuole, il parlarne negli ambienti è così, dove si fa cultura, dove si fa incontro, dove ci si contamina anche tra culture, anche solo il parlarne a volte è un tabù. Attraverso questa consultazione si cerca di rompere questo tabù. E, Lucrezia, un'ultima domanda. E qual è stata la reazione, se c'è una reazione? Nel senso, un forte appoggio, immagino, però poi c'è anche chi contrasta, c'è anche chi vorrebbe il silenzio piuttosto che una campagna di sensibilizzazione? Per il momento non posso parlare di voci contro, sicuramente ce ne saranno, ma questa iniziativa e questo appello lanciato dalla vicepresidente Viviane Reding è stato recepito in maniera molto positiva, è stato lanciato anche in seguito a un confronto con altre personalità e attiviste direttamente coinvolte in questo nella lotta contro questo crimine e giustamente questo problema, come ho già detto, è un problema che deve essere affrontato da vari punti di vista, sia da un punto di vista di protezione delle vittime, da un punto di vista di prevenzione di questo tipo di crimine e di sensibilizzazione sia dal delle persone sia di sensibilizzazione delle potenziali vittime, ma anche di sensibilizzazione delle persone che accolgono tali vittime. Certo. Quindi una serie di per questo è necessario anche stanziare dei fondi che siano gestiti a livello di autorità nazionali e di ONG che operano nel settore, proprio perché c'è una maggiore conoscenza di quella che è la situazione, il problema che si manifesta in maniera più evidente, può essere un problema di accoglienza o di anche di gestione sanitaria di questo tipo di pratiche. Lucrezia, grazie davvero. Ricordiamo facebook.com/European Commission, il sito con la campagna di sensibilizzazione dove postare anche le foto, oppure c.europa.eu, il sito per avere conoscenza e informazioni sull'intera campagna. Un grazie a Lucrezia Titi della Direzione Generale Giustizia della Commissione Europea. Buon sabato, Lucrezia. Grazie a voi, buon sabato. Europost-it. Il giro del mondo in 80 giovani. Avete tra i 16 e i 35 anni? Siete all'estero per motivi di studio, lavoro o volontariato? Vi piace scrivere e vorreste tenere un diario di bordo della vostra esperienza? Potete diventare un reporter di 80giovani.it. Avrete un blog a vostra disposizione da tenere aggiornato settimanalmente e da arricchire con foto, video, segnalazioni e consigli per altri giovani diretti nel vostro paese ospitante. Il progetto è realizzato dal Coordinamento regionale Informa Giovani del Piemonte e ha l'obiettivo di far conoscere ai giovani italiani la realtà di paesi e città stranieri viste attraverso gli occhi dei connazionali che si trovano all'estero. Tutti i dettagli per partecipare collegandosi al sito 80giovani.it. Quarta sofremos miseria e quinta passamos fome. Na sexta quase nos fomos, não se aguenta quem não come. no sabe, manda escozer o pãozinho, se não no domingo ao rei, vamos comer-te inteirinho. Prezado senhor e rei, sabe se não... Um milhão e meio de pessoas, forse... Forse 2 milioni, comunque tante, tantissime. Il 2 marzo hanno sfilato in Portogallo per protestare contro la politica di rigore del governo portoghese, contro la Troica. A settembre un'altra manifestazione simile, erano 800.000, 1 milione le persone scese in piazza. Tante, tantissime. Da settembre ad oggi il Portogallo ha visto il maggior numero di manifestazioni nella sua storia democratica. Non c'erano... manifestazioni del genere dal 75, appena dopo la rivoluzione dei garofani. I portoghesi sono un popolo malinconico, sono un popolo apparentemente pigro, sono un popolo che a fatica scendono in piazza per protestare, cercano altre vie per esprimere il proprio malessere. La crisi invece li sta facendo scendere in strada, questo è segno sicuramente di una disperazione. Per capire quello che sta succedendo, ma soprattutto per capire quali sono le facce delle persone che scendono, perché ci sono per esempio tantissimi anziani che scendono per non tanto per loro quanto per le generazioni successive, per i loro figli, per i loro nipoti. Abbiamo scelto di parlare di queste manifestazioni attraverso le facce dei manifestanti, le facce così come sono state... raccolte, raccontate, immortalate da un fotografo italiano che in Portogallo ci vive. Diamo il benvenuto ad Attilio Fiumarella. Ciao Attilio. Ciao, buongiorno. Tu sei un architetto, cosa ci fai in Portogallo e come da architetto ti sei trovato a fare il fotografo? Beh, sì, sono architetto, ho studiato architettura qui in Portogallo, ad Oporto. E io, come tanti italiani che attualmente vivono qui, ho deciso di rimanerci perché l'architettura qui in Portogallo diciamo è fatta con molto rigore, è abbastanza vista abbastanza bene, è uh-huh. molto importante. E sono diventato fotografo perché avevo sempre avuto questa passione della fotografia, che poi con gli anni è diventata sempre più forte, fino a che ho deciso di farla diventare il mio lavoro. facebook.com/l'altra Europa, la nostra pagina in Facebook, oppure il sito diretto di Attilio, attiliofiumarella.com. Attilio, raccontaci dal tuo obiettivo, cosa hai visto, cosa stai vedendo, cosa sta succedendo in Portogallo in questi giorni, in queste settimane? Sì, innanzitutto ho notato che c'è un grande cambiamento nell'aria. Infatti quando sono arrivato qui 10 anni fa, manifestazioni quasi che, non dico che erano inesistenti, però erano sempre molto, molto rare e con pochissima partecipazione. Già da un anno a questa parte invece le cose stanno cambiando. Un movimento è caduta la linea con Attilio, lo richiamiamo al volo. Intanto vi ricordo il sito, che è attiliofiumarella.com, oppure lo trovate su Facebook, dove appunto potete trovare le manifestazioni, le foto delle manifestazioni. Lui in questi giorni le ha seguite, è stato in piazza con loro, ha conosciuto le loro storie che ha preferito raccontare attraverso delle immagini invece che con le parole. Eccolo qua che l'abbiamo ritrovato. Attilio, ci sei caduto. Sì, eccoci. Sì, sono caduto. Allora, stavo dicendo che da un anno a questa parte hanno cominciato queste manifestazioni e l'ultima è stata proprio quella del 2 di marzo. La cosa che più mi ha colpito è che soprattutto in questa manifestazione c'erano pochissimi giovani, c'erano molte persone anziane. Questo forse per due ragioni principali. La prima è che molti sono già andati via, stanno emigrando, vanno verso l'Europa del Nord o addirittura in Brasile o verso altre colonie portoghesi, ex colonie portoghesi. Altre perché le persone che più soffrono con questa situazione della crisi sono proprio gli anziani, perché le pensioni sono state ridotte e sono davvero al minimo. Ecco, quindi la tristezza e rabbia sono le parole che forse più descrivono le facce che ho visto a Lisbona, nella manifestazione del 2 di marzo. Tristezza e rabbia, quindi non rassegnazione, comunque voglia di cambiamento? Sì, no, sicuramente c'è voglia di cambiamento, però c'è anche molta disorientazione, non si sa cosa fare. E le persone hanno voglia di cambiare, perché non ce la fanno più. Attilio, c'è una foto che più delle altre, secondo te, racconta il Portogallo di oggi? Beh, tra queste ultime forse ce ne sono due. Una è proprio quella che si vede un cartellone pubblicitario con sfondo rosso. Sì. Che dice, che chiede, i giovani hanno soltanto futuro nell'emigrazione, e l'altra metà della fotografia è riempita di persone anziane, quindi quasi a voler dare una risposta a questa domanda. L'altra è quella in cui si vede questo gesto, questo pugno al centro della fotografia con tutto il resto dei partecipanti alla manifestazione sul fondo. È quasi come un gesto di rabbia che può rappresentare lo stato d'animo dei portoghesi in questo momento. Ok, foto che ho trovato e che sto già linkando al volo sulle nostre pagine in Facebook. Attilio, grazie davvero, continua con questa attività, ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa per raccontare il Portogallo anche attraverso le tue immagini. Ciao e buon lavoro. Grazie. Ciao. Buona giornata. Ciao. E questo grazie va a tutti voi che siete stati in nostra compagnia, e va anche a tutta la squadra dell'Altra Europa, Margherita Ine e Miriam Lucchetti, che con me hanno scritto la puntata, Giorgio De Luca oggi in assistenza e Peter Bescapè alla parte tecnica. Ci trovate su Twitter, Federico Taddia, l'hashtag è l'Altra Europa. Ci trovate su Facebook, facebook.com/l'altraeuropa, oppure ci trovate ovviamente sul sito di Radio 24, radio24.it. Da lunedì potrete anche riscaricarvi e riascoltarvi la puntata. Adesso il GR e poi il Gastronauta. Ancora ciao da Federico Taddia. We'll be right back.